Guardate qua. Intanto vedete che qui sto usando sempre più simboli e meno parole. Perché i simboli parlano a quelle zone di noi che non conoscono il linguaggio. Cioè parlano al 90% di noi, il linguaggio parla al 10%, il resto non capisce. I simboli sono dei condensatori, contengono moltissime informazioni con pochissima spesa per il cervello. Quindi sono particolarmente economici. Osservazione, come io posso osservare il mondo, come posso comprenderlo, l'intelligenza, la capacità di capire. E qui dentro c'è un simbolo che indica proprio il segreto della possibilità di comprendere. Guardate, questo, cosa può voler dire questo? Se questa è osservazione e questo sono io, che vuol dire sta freccetta? Osservare me stesso. E questo cosa vuol dire? Ok. Guardate queste frecce che vogliono dire? Che io posso osservare fuori nella misura in cui osservo dentro e osservo dentro nella misura in cui osservo fuori. Chi invece fa questa operazione, o così, pensa male, come chi separa il maschile dal femminile. La scienza moderna ha fatto questo. Osservazione oggettiva del mondo esterno, eliminare la soggettività. Le conseguenze le vedete nelle ferite della natura e in tutto quello che sappiamo. Okay? Ma anche questo non è mica molto meglio. Se io continuo ad osservarmi, ma che scopro? Riferimento interno, sempre io, capisco niente di me. Quindi questo è un estremo, questo è un altro estremo e questo è pensare male. Ad esempio certi gruppi spirituali che fanno solo attenzione a quello che sentono, le preghiere, le meditazioni, i mantra, i suoi, gli incensi, poi se sono nel New Age, foulard, oli essenziali, musichette New Age, sono lì. Dopo anni e anni vai a beccare dei rincoglioniti. Cioè che ti parlano per termini energetici di cose che non capisce nessuno, se non loro, e non hanno nessuna conseguenza nel mondo. Creano delle piccole oasi, dove ci si sta bene perché ci si nutre a vicenda. Io ti porto la torta pasqualina fatta a Genova, tu mi porti quell'altra, mettiamo insieme, ci sentiamo in estasi. Però se poi succede in conflitto lì dentro, è meglio non esserci, perché quello che succede è un odio furibondo. Quei gruppi lì si spaccano con la facilità di una bolla di sapone. Basta niente, perché sono radicati sul nulla. Ecco. Lo spirito è incarnato nel mondo oggi. Chi studia il Buddha, e poi studia il Buddha, e poi studia il Buddha, e ancora, sa esattamente tutto quello che ha detto, lo sa ripetere a memoria, lo sa dire anche al contrario, oppure una parola sì, una parola no, o tutte le parole che iniziano con C. Ma quello è un matto, non è un sapiente, è un pazzo. La vera domanda che ci dovremmo porre è, una volta che ci siamo fatti un'idea sufficiente del Buddha e del buddismo, semmai, ci dovremmo chiedere, bene, invitiamolo qua, il Buddha. Cosa direbbe? Vediamo Gesù qua. Cosa direbbe? Vediamo Socrate qua, Krishnamurti, Nelson Mandela. E dice, ma come fai a farlo? Beh, lo posso fare, perché a differenza di te che mi fai questa domanda, a cui evidentemente in questo momento non lo puoi fare, sono ancora in risonanza, sono ancora in collegamento con l'umanità, che si basa sulla risonanza. E se io frequento a sufficienza il pensiero di una persona, anche attraverso, e ne parlo con altri, dialogo con altri, condivido, dopo un po', Non è che ci vuole uno sforzo titanico a capire cosa direbbe oggi, perché le cose che c'erano da dire allora le ha dette. Quelle cose sono eterne, sono valide sempre, ma vanno messe nel tempo presente. Oggi probabilmente, non so se Gesù l'ha detto o no, andate, moltiplicatevi, non lo direbbe più nessuno. Se andate e fate con calma.